Ci siamo svegliati alle 6:30 con una chiamata di, appunto, noi che abitiamo qua davanti, qualcuno che si era svegliato a quell'ora, che si è accorto che c'era uno spiegamento di forze di polizia intorno al cantiere e gli operai dentro. Ci sono 5 camionette della polizia, 40 della Digos dentro e fuori dal cantiere e 2 operai che stanno tagliando gli alberi. Questo è il dispiegamento di forze di polizia che il comune di Bologna manda per dei lavori in un parco con 10 persone di noi, adesso insomma forse un po' di più, una 20, che si stanno radunando con calma, ovviamente, perché i tempi per arrivare qui insomma ci vogliono un po', da tutto il quartiere ci stiamo radunando qua davanti. Però questo è quello che sta succedendo: 2 operai che tagliano gli alberi e non so, 80 poliziotti, questa è la situazione. Noi siamo qua, quello che possiamo fare, l'unica cosa che stiamo facendo è fare rumore per chiamare la gente, quindi stiamo battendo contro le transenne, che ricordo sono di metallo tutto intorno all'area dove dovrebbe sorgere il museo, quindi stiamo battendo con i coperti delle pentole. E un ragazzo, quando uno insomma, di noi è entrato nel cantiere questa mattina per tentare di fermare gli operai ed è stato portato via dalla polizia, quindi adesso è in questura. Certo, ecco, quindi insomma un altro cantiere militarizzato. Ma fino a questo punto a livello istituzionale come erano andate le cose? C'erano interlocuzioni? Come a livello istituzionale è successo che noi siamo andati il 26 di gennaio sotto il comune e siamo saliti, abbiamo interrotto il consiglio comunale chiedendo insomma di essere ascoltati, portando quelle che sono le ragioni di noi abitanti del Pilastro, che non siamo stati assolutamente ascoltati, neanche consultati, nonostante il comune parli come sempre, no, dei percorsi di partecipazione sul quartiere, ma veramente la gente qua non sa assolutamente nulla. Poi abbiamo fatto la richiesta ufficiale di incontro con il sindaco e con l'assessore di riferimento, che è l'assessore Daniele Ara. Non ci hanno mai risposto, nessuno, proprio non c'è stata nessuna risposta da parte loro. La risposta è questa: sono arrivati stamattina con le motoseghe, credo, non so, forse tutta la dotazione di polizia che c'è in città, perché sono veramente tutti qui. Quanti alberi stanno venendo tagliati? Allora, adesso ne hanno tagliati due, cioè hanno praticamente tolto tutti i rami dei 2 alberi e stanno affrontando il terzo. Dovrebbero essere 4 in totale quelli tagliati, anche se ovviamente poi i numeri diciamo che non sono mai sicuri, perché se si va a leggere bene il progetto del MUBA in realtà c'è scritto che sono 9 quelli da tagliare, sono meno quelli che verranno trapiantati. Però insomma tutti gli alberi più grandi che sono dentro nell'area del cantiere verranno tagliati, perché ovviamente non si possono spostare gli alberi, e se io li guardo adesso sono almeno 6. E poi ci sono gli alberi, quelli piccoli, quelli che hanno piantato in compensazione della caserma 2 anni fa, che hanno detto che appunto li sposteranno, però al momento sono 2, praticamente hanno finito, c'è rimasto solo il tronco. È nel comunale oggi pomeriggio, perché avevamo chiamato un presidio sotto in Piazza Maggiore, e quindi credo che torneremo con forza lì, visto quello che è successo stamattina, e anche per chiedere conto della persona che è stata arrestata.